Te scegli il giorno delle spigole, le spigole che hai giubilato. Bella roba, no, Gianni è proprio, Gianni è un grande professionista qua a Canoppe, cioè, bravissimo, ho visto tante bellezze prese, ratte, di tutto, tutto è califora, molto bravo. Invece si hanno mangiato i pesci perché non si è più né fatto vedere né fatto sentire né radio né di persona. Sicuramente è caduto e si hanno mangiato i pesci. Te lo ricordi il posto dove avevo beccato delle scipita? Che te l'ho giubilato, tu mi dici una... Allora, guarda, e invece io ho aspettato che entrava il peschereccio e ne ha giubilato e tutto il mese l'hai ragato. Io me lo ricordo che sei salito sul peschereccio e ne cipò la ziota. Allora, io non ho detto che sotto il coso della poppa è tutto pieno di pesce che ha lei, con la cipolla, con la fare fritta, la mia zia Bobo. L'ho detto già, io ho fatto, va a buttare il rempito. E poi non so se mi hai regalata tua, Natalina me l'aveva regalata una seppia. Eia, sì, è vero. E due o tre te ne avevi preso per farti il riso, ho detto che ti serviva. E poi qualcuno ha lasciato il segno, ho fatto male a dirlo. È andato con altri amici, cosa hanno messo, non si mettono male i seppie sopra il molo, perché poi lasciano l'inchiostro, se ne accorgono e vanno tutti lì a pescare. Una risogata era tutto pieno, io li mettevo direttamente dentro la busta di modo che non si vedesse nulla. Invece qualche inesperto ha fatto questo gioco qua e mi ha fatto fregare il posto. Io già me lo ricordo infatti che una volta nella radio mentre sono andato a pescare ho detto di là c'è un anno che mi avvicino, no, sono un altro posto, non te lo dico alla radio, infatti ero dall'altra parte, datemi sempre, comunque sono qua, io se vado via vi saluto, no, non me lo vado senza salutare. Carlo riprendi tu e fai girare che vado a vedere, ti fa guardare che oggi sta facendo la monella. È lo scherzo che mi ha fatto Massimiliano Mondozzo, te lo dico. Allora. Già mi sono cagato davvero. Quella è la brutta. Carlo. Eccoci, ho messo a cuocere delle bietole che mi hanno regalato, capito? E un po' di acqua col sale, e le ho fatte bollire, le ho scolate, adesso raffreddano, poi ci verso sopra un po' di olio d'oliva, stanotte mi mangio una bella bistecchetta che c'ho e me la ceno così, la frutta e poi mi accomodo alla TV, mi guardo la partita, Italia 1, c'è la Coppa Italia, a chi interessa, Atalanta-Juventus. No, io stasera Carlo mangio pizza, mi sono preparato la pizza con tonno, cipolle, come arrivo accendo il forno e via. E niente, no, stavo raccontando dello scherzo che mi hanno fatto. Una notte sono andato a pescare, stavo andando in macchina, c'era il baracchino e mi ha sentito questa amica, mi ha detto dove stai andando già? E tu mi stai andando a pescare qua, se ce la faccio scendo a farti compagnia. E vabbè, io tanto sono solo, ma non sono mai solo perché conosco a tutti lì, quindi non ho problemi. Vabbè, se vuoi venire, vieni. Verso le 2:30 di notte mi vedo questa luce abbagliante dal cielo che scendeva e veniva verso di me. Allora mi sono preso uno spavento, mi voglio un extraterrestre, un UFO. Poi questa luce era sempre più abbagliante, capito? Cosa mi hanno fatto? Mi hanno messo di quelle cose cinesi, ci hanno messo la carbonella dentro e praticamente accendeva ancora di più con la carbonella, capito? Ma mi sono preso uno spavento, Carlo, come avevo preso spaventi del genere? Monellacci? Perché stai scendo così sato? Perché per la vittoria mi ero avvicinato alla bocca. Mi sposto a casa di mia mamma a controllare. Va bene, avanti Carlo, dai. Niente, adesso già impostato tutto e poi verso le 8 così. C'ho la bistecchiera, capito, quella in ghisa, due girate, un po' di sale, un filino d'olio e me la ceno così stanotte. E cosa vuoi fare già? Tanto oggi è tempo brutto, stasera si è messo pure a piovere. Stamattina sono uscito, ero in giro da presto. Mi dispiace, a proposito Gianni, l'altro giorno quando eri in zona qua e non c'ero, ero alla casa della chiave perché dovevo ritirare una chiave di un appunto di un mio amico che praticamente si è rotta, ha portato il resto della chiave per fargliela fare, però aveva perso il microchip, quello che serve per fare partire la macchina, capito? Meno male che non aveva buttato via tutto, di conseguenza l'ha recuperato, poi me l'ha fatto avere, capito? E quindi l'ho ritirata. Poi ieri sera non c'ero, sono uscito e sono rientrato tardi, avantieri ero di cena, sono rientrato a casa che erano le 2 di notte, tardi, quindi in questi giorni ero un po' assente alla radio, capito? Oggi sono più casalingo, sono uscito di mattina, stasera però sono a casa ma sto facendo un sacco di cose. Sì, anche io oggi ero in movimento, sono andato a prendere la carne a prendere niente, sono andato a fare la spesa, insomma, poi mi sono pulito tutto l'acquario perché stava tirando male la pompa, l'ho tutta pulita bene, io ho uno spazzolino vecchio di quelli elettrici, però funziona, capito? È vecchio, l'ho cambiato e lo uso con lo spazzolino, lo uso per pulire bene le fessure e tutto quanto. E l'ho fatto tutto bene, gli ho aggiunto l'acqua, tutto quanto e niente, c'è passata la mattinata, si sono fatte le 9:10, non ti dico altro, tra pulire casa e fare, e già c'è passata la giornata, anzi, vorrei più orario, invece purtroppo di 24 ore una giornata. Ne ho fatto poche, qui sono tornato a casa, mi sono dovuto confezionare 4 kg di carne, perché prendo la carne per il cane, prendo il fegato, il cuore, una roba buona, non è che non li do scarti. Le ho tutta congelata nelle bustine, poi quando a me mi serve la tolgo fuori. Ti organizzi, fai bene per il cagnolino. Io lo stesso qua, non è che ho comprato la carne, però ho comprato, sai, quelle scatolette pronte a mangiare per i cani, a volte lo porta mia figlia, tipo l'altra sera, mia figlia con mio figlio sono venuti e avevano il cane appresso, dice ma però, dice vado a dare da mangiare al cane, poi torno, no aspetta, ho detto, gli ho fatto un po' di riso, gliel'ho mischiato e se l'ha mangiato tutto, capito? E con gli animali bisogna sempre avere qualcosa. Dai, lo sai cosa fa? Se tu gli metti le scatolette, allora lui si gira e con la zampa lo scarta. È come se scavasse, così fa. Gli piace? No, proprio lo rifiuta, non ne mangia. Da piccolino, per dire, siamo andati a Cagliari una volta a trovare Emanuela perché lavorava a Cagliari lì. Praticamente gli abbiamo portato il cane che era piccolo, gli ho portato la scatoletta e lì l'ha mangiata, però ha aperto questa scatoletta, aveva un odore, mamma mia, per carità, e loro la mangiano, però e io preferisco, anzi adesso non gli do manco più le crocchette, perché da quando hanno scritto questa storia delle crocchette ho paura a dargli. Ne ho comprato quelle della Purina, no, della Mongi, non della Purina, le Mongi, però quelle da 2 kg, finite quelle non ne do più di crocchette, gli do solo il pasto che li faccio io, carne, pasta e la verdura, e fatto il gioco. Se ci tieni al cagnolino è ovvio che gli prendi roba buona. Sì, no, queste sono scatolette che ho trovato alla Conad, capito? Costano ognuna 1,29 euro, sì, 1,29 euro le ho pagate e sono c'è carne di manzo, tipo scatolette Simmental sono, però sono quadrate, basse, capito? Non è proprio scatoletta, sono una specie di materiale tipo cartone duro, capito? Però non hanno un cattivo odore, capito? Quando l'apri si sente l'odore della carne. Ah, si era mangiando tutta, il riso e tutto quanto, come gliel'ho messa, capito? Il riso era un po' caldo, con quella l'ho raffreddato. ha spazzonato tutto il piatto pulito. Quando le do il riso, ricordati, forse già lo sai, e devi togliere l'abito. Sì, già gliel'ho scolato, perché poi mia figlia mi ha detto magari è troppo caldo, quindi l'ho messo sotto l'acqua e quindi già l'amido già gliel'ho tolto. Ma tu lo sai meglio di me, che eri figlio di veterinario. Comunque io già sono ben informato, perché a me piace trattarli bene gli animali, e mi informo, tutti gli animali che ho avuto mi sono documentato. Così si deve fare, se no, se uno non legge, non si documenta o almeno non chiede, come fai a trattarli bene gli animali? E poi tu, per esempio, c'hai il cane, c'hai i pappagallini, per i pappagallini ci vuole un sacco di manutenzione, devi sapere cosa dargli da mangiare, devi sapere, insomma, pulirli, poi si accoppiano, devi sapere un po' tutto, le stagioni di quando, e pazienza ci vuole. Ma ne hai ancora tanti, Gianni, interrogativo di pappagallini? Sì, ne ho sempre tre, sempre i soliti tre, non ne ho altri, ma c'ho quelli lì. Quindi lì mi portano via un'ora al giorno per pulirli, perché io li pulisco ogni giorno. Un'allevatrice ha scritto no, io li pulisco un giorno sì, un giorno no, no, io non li faccio, qui si formano i batteri, si prendono virus, si prendono cose varie. Io li pulisco ogni giorno con acqua e aceto, acqua calda e aceto, tutti i posatui, li faccio uscire di libero quando pulisco le gabbie, li pulisco tutti i posatui, le rettine che ci sono giù, li cambio la carta, tutto, li cambio acqua, li pulisco le mangiatoie, li metto la roba nuova, no, io li tratto bene. Insomma, un bel appento, ci vuole pazienza. Pazienza, tempo anche, vabbè, tu adesso già sei in pensione, quindi un'oretta già gliela puoi dedicare, capito? C'hai quello, poi c'hai il cane che magari lo porti mattina, pomeriggio, la sera, almeno 2-3 volte al giorno te lo porterà in giro, e quindi insomma già ne hai anche tu di impegni, Gianni. Quando non c'è da fare le visite, quando da fare le visite li pulisco dalla sera prima, e da mangiare glielo metto presto, e così sono puliti lo stesso. Capito, vediamo se è rientrato Tonino. Oh, Tonino ha chiuso pure al telefono ancora con qualche tipa. E va bene. Già va bene anche quello. No, dico così perché le donne sono ceramidosi e lui è già quasi più di un'ora forse che ci ha lasciato aspettarlo. E vabbè. Stavo dicendo a Luca che quando mi telefono un'amica forse mi trattiene anche un'ora e mezza al telefono, se lo burruica. Passa da un discorso all'altro, non molla mai. E io ho un amico, un caro amico, che abbiamo fatto le medie insieme, e poi ci siamo frequentati anche dopo le medie, poi lui per lavoro era andato via, e ci siamo incontrati dopo un sacco di anni, capito? E ho scoperto che lui aveva l'appartamento ad Alghero, la mamma sapevo che viveva ad Alghero, capito? E sono di Bonorva però originari, e quindi abbiamo ripreso insomma a frequentarci, e quando mi telefona ci sta un'ora e mezza, non ti molla neanche. Io solitamente al telefono quando ci sto 20 minuti è anche troppo, capito? Lui c'ha sempre da raccontare, da dire, eccetera, quindi non ti molla più, quindi quando vedo che lui mi metto comodo, capito? Se no già è cosa. Carlo, io ti dico la verità, dopo un bel po' che sta al telefono non riesco più a seguirla. La lascio parlare nello stesso modo con quello che mi sta dicendo. Infatti. No, molte volte anche io metto un viva voce, se c'ho da fare mi metto a fare, capito? Gli faccio, va bene, certo, certo, sì, sì, sì, capito? E lui parla. E io, mentre lui parla, lo stesso a volte mi metto anche a cucinare, perché ti chiama alle ore più disparate, capito? Molte volte sei ai fornelli e ti servono le mani, capito? Allora metto in viva voce, metto il telefono vicino, lo metto sul forno a microonde e parlo così, con le mani cucino e con la bocca sto vicino al telefono, e se no non esci più. E coi longo so. Vabbè, magari hanno bisogno di parlare. Io lo stesso, c'è un amico adesso che si è innamorato, mi immagino un gambo a cacco, Carlo. Questo sta volando, non c'ha più piedi per terra. Questa è qui la conoscita su internet. Deve venire qua, è continente, deve venire qua, e lui è già fidanzato. E io ho queste amicizie così fatte sui social, non lo so, non, io per me la moglie è una e poi le altre possono essere avventure, capito, ma no, io voglio di legarmi di nuovo, poi a una certa età, e come fai a innamorarti, cioè, da ragazzo quello va bene, capito, a una certa età può essere una attrazione solo, capito, ma non credo, poi soprattutto conosciuta a distanza così, come ti vai? Allora, questa qui era una ragazza di Sassari, che poi è partita in continente, lavora là tutto quanto, adesso gli ha fatto ottenere il trasferimento qua perché lui ha conoscenze, ha fatto ottenere il trasferimento qui a Sassari e va a abitare a casa sua, ma lui la conosceva già questa qua, capito, la conosceva già da Sassari, di vista però la conosceva, e poi si sono ritrovati. Ah, vuol dire che la conosceva già, ma è grande di età, l'età nostra, no? Sei un tuo amico, immagino di sì. 62 anni c'ha lì. Lei e lui più manno? Lui è andato in pensione, 67. E lei se ne ha 62 alla mia età, io ne ho 62, quindi pensa tu. Io ti faccio più giovane, cara. E vabbè, comunque è uscito di testa. E facciamo questo, facciamo l'altro, compriamo la casa al nero, facciamo tutto di noi. Allora, io mi auguro che ti vada tutto bene, perché se dovesse, secondo me, se lui dovesse dire il contrario di quello che pensa lui, sarà una delusione enorme. Io lo credo bene, anche perché poi... Tu la conoscevi da prima, ma questa è stata tanti anni fuori, voi siete cresciuti, capito? E non è come fare una vita da giovani, no, io per dire mi sono sposato nel 93, sono rimasto quasi 30 anni sposato, 30, 32 anni mi sa, sì, e poi 8 anni ero fidanzato, quindi eravamo 40 anni insieme, quasi metà vita insieme, capito? Poi ti molli, ma ormai io ho figli grandi che abitano qua vicino poi a me, non è che a me non è che mi manca più di tanto, capito? I miei figli già vengono regolarmente a trovarmi, mi chiamano quando hanno bisogno, vengono qua, hanno le chiavi di casa, capito? Per cui a me di andare a impelagarmi con altre donne, no, se mi capita l'avventura, cioè il letto bello, grande, matrimoniale, non ci sono problemi, però poi ognuno a casa sua, io faccio così, piragotta e piragrua, ognuno a nome sua. È la più giusta, ma io la verità, ne ho conosciuto una su internet, poi ci siamo messi insieme, siamo stati 3 anni insieme e lei abitava qua a casa. E poi vabbè, non è andata, ci siamo mollati, però vabbè, di avventure già ne ho avuto lo stesso, però adesso mi sono proprio scocciato. E infatti, anche perché poi insomma certi stimoli a una certa età ci sono, ma non sono come quando eri ragazzo, capito? E per cui quello che si doveva fare si è fatto da ragazzi. E poi sì, magari per carità, ci sono delle persone che si incontrano anche da grandi e poi si mettono insieme, vanno d'accordo, eccetera, per carità. Ma io in questo anno e mezzo che sono da solo mi sono quasi abituato alle comodità della vita da solo, capito? Perché quando hai voglia di addormentarti ti addormenti, se vuoi fare tardi la notte fai tardi la notte, non devi chiedere a nessuno, se ti va ad ascoltarti musica ti ascolti la musica e non disturbi a nessuno, mi capisci? Esco quando voglio, rientro quando voglio, vado e torno e non devo chiedere più a nessuno, quindi un po' questa comodità, diciamo, mi sta appagando, capito? Questo sì. Diciamo quello che ti manca è il tram tram della famiglia, che prima rientravi a casa, capito, sentivi i figli, quindi parlavi, a volte ci sono momenti di solitudine e vaffanculo, anche a me, non posso negare che qualche volta mi può prendere male, perché dici tu ma guarda un po' com'è andata, eccetera. Poi giro pagina e dico ma vaffanculo, ma accendo la musica e mi torna il buon umore, capito? E così penso di fare sempre. Sì, anche per me è così. Io mi sono sposato nell'89 e mi sono separato nel 2025, ma nel 2005. E quindi anche tu già ne hai passato di vita insieme alla famiglia, quindi che i tuoi figli ho visto che già ti cercano, per cui che problemi hai? Già stai bene, c'hai il cagnolino, ti fai i tuoi giretti, gli hobby ce li hai, quello che puoi fare lo fai tranquillamente, Gianni. Ditemi come avete fatto, lo faccio anch'io. Sì, già. E vabbè, non sono tutti rosi e fiori, perché se stai male, quando mi hanno operato a me, alla gamba, un po' di difficoltà le ho avute, perché dovevo arrangiarmi un po', vabbè che venivano i miei figli, però non sempre, quindi io se mi dovevo alzare dal letto mi dovevo aiutare con l'altra gamba, mettevo il piede sotto per alzare l'altra gamba, l'alzavo e poi scendevo piano piano, prendevo le stampelle e mi aiutavo. E ti sei aiutato da solo, così facciamo tutti. Avanti Claudio, sei rientrato? Io ragazzi sono rientrato, ma c'è il cacio piccola patate che stanno cucinando. Mia moglie si sta guardandosi la TV e io sono abituato a fare le cose e quindi adesso mi allontano definitivamente, me ne vado in cucina, poi c'è la Coppa Italia stasera, c'è Atalanta Juventus alla cosa non si chiama, 6, a Italia 1 e quindi ci guardiamo la partita, insomma, mettiamo il tempo così. Va bene, io faccio qua, ne faccio la furore, quindi immaginatevi voi, poi io ho un rapporto molto molto buono con mia moglie, non ci sono problemi. Mi ha sempre dato carta bianca, nel senso che non è che quando esco sta al telefono, dove sei, con chi sei, eccetera, eccetera. Dico, ci vediamo, lo riparto, che lo riparto, sono a casa. Sicuro non rientro, una telefonata normale. Niente, insomma, ci vuole anche un rapporto di collaborazione, capito? Beh, comunque, in un momento per me va tutto rose e fiori, poi se va bene, sono pazienza, i miei 45 anni me li sono fatti. Bene ragazzi, bando alle ciance, io vi saluto, ciao Gianni, ciao Carlo, Luca, chiunque fosse qua su 10. Ci sentiamo domani, nel passo e nel corretti definitivo, io non vado mai via se non saluto, se no è un segno di maleducazione. Ciao a tutti, buon proseguo, a te di nuovo Carlo, ascolto i finali e poi chiudo. Benissimo Claudio, dai, ci sentiamo alle prossime, già sai, quando sei sempre il ben sentito qua in radio, dai, quando vuoi entrare, vai Gianni. Ciao Claudio, dai. una carica quando la fai. E grazie per il question. Alla prossima, avanti di nuovo, capo. E vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, se è entrato Luca, Tonino, vediamo un po', lasciamo un attimo di bianco, nada, non c'è nessuno, e va bene, da Faratti, 19.36, e il cane l'hai portato o lo devi portare già? No, non lo devo ancora portare, vai tranquillo, capito, già mi avvisa Luca non vuole scendere. E tranquillo, solitamente scendeva Maleotti, adesso che vuole scendere alle 8:15, non capisco perché, ha cambiato orario, forse questo sbalzo di cambiamento di orario l'ha un po' confuso. Eh sì, poverino, ma già lo sento a volte anche alla radio quando si lamenta, dai, fa i mugugni che vuole uscire. Sì. E gli animali si rendono conto quando sta cambiando il tempo, che le giornate stanno crescendo e quindi loro si adattano anche meglio di noi umani. Perché ho visto che adesso sta facendo buio alle 6, capito? 6 e 10. Capito? Piano piano stanno crescendo. Adesso a fine febbraio, se ti fidi, fa buio che sono le 7:15. A marzo cambia l'orario e a dire la verità io preferisco l'altro orario, l'ora legale, poi è quella che dovremmo tenere sempre, secondo me, per non stare con questi cambi di ora. Mi hai tolto le parole da bocca, ma perché lasciano sempre l'orario che c'è l'estate, boh. E comunque, caro, se ti viene la passione della pesca, qualche giorno possiamo andare a pescare. Non so se ci sia ancora il pesce che c'era prima, perché dice che adesso non si pesca più nulla, però una volta mi ricordo che sono andato a pescare e ho chiesto a quelli che c'erano, beh, sta mangiando, sai come si fa? Oh, tutta la sera siamo qua, non abbiamo fatto la mangiata. Ho lanciato due carne, ho preso una taruta da 1,5 kg, appena lanciato, perché sono predatori, e praticamente è come il sarago, però bello massiccio, scuro rimane, non so se lo conosci. E io non è che sono molto pratico di pesci o di pesca. Ci sono andato io tante volte. Una volta con mio cognato aveva la casa a Costa Paradiso. Siamo usciti col gommone a buttare il palamito, capito? La sera, tardi. 500 metri di palamito, con le ancorette, i galleggianti, tutti gli ami, capito? Poi siamo andati l'indomani mattina a ritirarlo e inizia a prendere pesci. A un certo punto ne tira su questo grongo enorme, me lo butta sui piedi, erano le 6:30 del mattino. Questo grongo a bocca aperta è venuto verso di me, ho preso, mi si sono buttato in acqua, e loro che rideva, c'era mio cognato con un suo amico, capito? E io non sapevo che cazzo fosse questo serpente, ho visto enorme, cazzo, e mi sono buttato in acqua alle 6:30 del mattino e loro che ridevano. Però poi nella zuppa già l'ho mangiato, capito? Io già lo credo. Io l'avevo preso un grongo così, però con i filaccioni, non con i palamiti. Facevo i filaccioni con la lenza grossa e l'amo grande, non mettevo la sardina intera. La legavo col filo elastico e ne ho preso uno bello grosso, ha pesato 3,50 kg, ma ha attorcigliato tutta la lenza, un casino ha fatto, si attorcigliano tutti. Lo so, già mi ricordo, e lì a Costa Paradiso ce n'era allora di pesce, capito? C'era pesce, era pieno di cinghiali, credo che sia ancora così, perché mi ricordo che a Costa Paradiso andavo a farmi il bagno alle baiette che ci sono sotto, no? E lì c'era una specie di piscina naturale, con la maschera guardavi sotto, era pieno di saraghi, ma enormi, capito? Ma sai quanti ce n'erano? Ma che hanno quella striscia nera, però grandi, capito? Io non avevo mai visti così grandi, lì era pieno. Saraghi pizzuti si chiamano saraghi pizzuti, praticamente praticamente andavo a la piscina, con la zona Costa Paradiso, quando facevo pesca subacquea. Sì, lì è posto di anche di polpi, perché è molto roccioso lì il fondale, pieno di pietre. C'erano miei nipoti, infatti, che loro sono bravi a pesca, mio nipote ci va, abita anche qua vicino a casa mia. Infatti una canna gliel'ho regalata io, ero venuto in garage, ti ho qua queste canne, me la regali, una prenditela, tanto io non le uso. A me, io non ne ho mai comprato, cioè c'era un mio amico che aveva il gommone che gli si era bucato in acqua, ce l'aveva a Portoconte, e quindi gli avevo fatto la cortesia di recuperargli questo gommone che stava per affondare. Avevamo ripescato il motore staccato e tutto quanto. Poi il gommone gliel'avevo fatto riparare praticamente, eppure ha riuscito a venderlo, però lui poi ha avuto problemi di salute e non usciva più in barca né può andare più al mare. Allora ha preso e mi ha regalato tutte, prenditele via, tanto io non ho posto qua per tenerle in garage, non tengo più niente, non è possibile, non ci sta neanche la macchina, eccetera. E allora ho detto dammele, a qualcosa serviranno, ho detto prima o poi mi deciderò ad andare a pescare. E addirittura ce n'è una grande che ha il mulinello per la pesca traina dalla barca, capito? Infatti la canna ha una specie di attacco sotto, capito? E ne ho tre o quattro, ma non ci sono andato. Però se ci organizziamo un giorno, magari già ci possiamo andare. Sì, infatti, io c'ho tutto, c'ho gli stivali imbottiti, c'ho i pantaloni imbottiti, quelli che abbiamo messo al concerto, quelli lì, quando c'era il concerto dei Rossi la Mazzucchi, per non prendere freddo avevo messo che pantaloni imbottiti, sono tornato tutto sudato nelle gambe a casa. Immaginate che caldo che dà. E quella è roba da usare in quelle occasioni là di freddo e di bagnato, tu le hai messe là e invece ti hanno fatto sudare. Va bene Gianni, dai, che mi sa che si sta facendo tardi, ho sentito il tuo cagnolino che ti sta reclamando. E infatti ti stavo per salutare, dai, ci sentiamo Carlo, dai, buona serata, buona continuazione. Quando sei ferito, io ce l'ho anche ieri vicino a casa tua, sono passato a piedi perché ho messo la macchina via dell'astronautica, che avevano trovato parcheggio per andare all'assicurazione, e poi sono dovuto salire a piedi proprio davanti a casa tua, sono passato, guardato, ma non c'era manco la macchina. Guarda, se tu passi in questi giorni, la mattina mi dovresti trovare a casa, tranne quella mattina che ero uscito perché avevo quella commissione da fare. Io sono in ferie sino al 12, capito? E quindi ha voglia che sono a casa. Se passi da queste parti, fammi un colpo di telefono a dire ca, poi ti dico io dove parcheggiare. Tu allora, se passi davanti a casa, c'è il cancelletto e il cancello grande dove c'è passo carrabile, lì non ci parcheggia mai nessuno, quello è del nostro condominio, capito? Quindi se tu vieni e la parcheggi anche davanti a quel passo carrabile, non succede niente, poi la vediamo dal terrazzino la macchina, capito? La metti lì, se devi fare una commissione da queste parti, e nessuno ti dice niente. Se passi un giorno di questi, ci prendiamo un caffè insieme. Va bene Gianni, dai, buona passeggiata, alle prossime, capito? Ci sentiamo, ok? Sì, Carlo, dai, se capita volentieri, dai, non c'è problema. Ciao, ci sentiamo. C'è successa una cosa ieri, siamo rimasti chiusi dentro il cancello perché siamo andati ex casa di mia suocera che dovevo recuperare le mattonelle e poi non le abbiamo trovate, non ci sono. C'erano quelle del padre. E praticamente andate a usare il telecomando e non funzionava più, si è scaricata la batteria e sono rimasto dentro con la macchina, ho dovuto saltare il cancello, andare da quei cinesi e comprare la batteria. Un casino. E io infatti nel cancello ho sia il telecomando che la chiave, capito? Va bene Gianni, dai, buona passeggiata, alle prossime, ciao. Ciao Carlo.